a macchia di leopardo nella regione, ieri probabilmente non avete visto sul digitale terrestre della Rai il secondo tempo della partita. Magari siete ancora un po' incazzati, sappiate che la Rai ha detto è un blackout inspiegabile, mistero sui motivi. Sta di fatto che in Piemonte molti non hanno visto il secondo tempo della partita. Le 8:17 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua nuovamente in diretta, la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci qui. Buongiorno. Cara Deborah. Mamma mia, Alessandro, avrei dormito ad oltranza stamattina. Ah sì? Ma come, estate? Beh, guarda. Si aprono le persiane. Era promesso che oggi arrivasse qua a Milano. Non vedo niente. Vedo il solito grigio. Grigio novembrino. Allora, buongiorno a tutti. Ritorniamo a parlare un po' del nostro rapporto con la banca. Questa mattina soldi e dintorni perché? Perché nei giorni scorsi a Roma sono state presentate, nell'ambito di una conferenza promossa dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dedicata ai sistemi e servizi di pagamento internazionali, due guide che sono state prodotte proprio grazie alla collaborazione tra ABI, 5 associazioni imprenditoriali, fra cui Confindustria, Confcommercio e Confartigianato e 16 associazioni dei consumatori, due guide dove vengono presentate tutte le novità che riguardano appunto i sistemi di pagamento che stanno arrivando grazie alla direttiva PSD, la direttiva europea sui servizi di pagamento. Allora è un anno di cambiamenti molto importanti, rifacciamo un po' il punto della situazione questa mattina perché li dobbiamo monitorare costantemente con il dottor Pier Francesco Gaggi, responsabile area infrastrutture dell'ABI, che saluto. Dottor Gaggi, buongiorno, buon inizio settimana. Buongiorno. Anche a lei. A Roma tempo credo migliore di Milano, almeno spero per voi, la primavera è arrivata stamattina. Ecco, andiamo bene allora. E quindi, come dire, ci consoliamo parlando di sistemi di pagamento. Allora, dottor Gaggi, intanto presentiamo un po' queste due guide, perché tengono conto appunto dei cambiamenti che stanno interessando il sistema bancario non tanto italiano quanto europeo, questo è un punto importante, e soprattutto intanto dove le possiamo trovare, perché mi sembra anche un'informazione fondamentale da dare. Certamente. Allora, le due guide che sono rivolte sostanzialmente, una al mondo dei consumatori e l'altra al mondo delle imprese, verranno acquistate e messe presso i propri banconi, diciamo così, presso i propri sportelli dalle banche, ma noi intendiamo promuoverne la diffusione anche via web, per cui chiederemo alle associazioni che hanno partecipato, sia associazioni di imprese che di consumatori che hanno partecipato all'elaborazione di queste guide, hanno contribuito a produrle dal punto di vista dei contenuti, anche di metterle sui propri siti web in maniera tale che possa risultare più ampia possibile la diffusione dei contenuti di queste guide, che come ricordava lei riguardano una direttiva che è stata voluta e che ha avuto un percorso di elaborazione ampio proprio per realizzare un quadro comune all'interno di tutta Europa delle regole con le quali si effettuano i pagamenti. Pagamenti intesi come bonifici, intesi come incassi, quindi RID, e l'uso delle carte di pagamento. E infatti, e allora queste due guide, lo ricordiamo ancora, una rivolta ai consumatori e una rivolta alle imprese, saranno presso su tutti gli sportelli bancari, presso tutti gli sportelli bancari, poi ci sarà anche una massiccia diffusione tramite il canale web. Allora rifacciamo un po' il punto della situazione, dottor Gaggi, sulle novità che stanno costantemente introducendosi nel nostro sistema bancario, appunto grazie all'applicazione della direttiva europea sui servizi di pagamento. Ovviamente, come è successo in tutti gli altri paesi dell'Eurozona, anche i legislatori italiani hanno fissato un calendario. La prossima tappa è quella del 5 luglio, quando partiranno le nuove procedure su addebiti diretti e incassi. Cosa cambia per i clienti delle banche? Allora, cambia sia lato clientela imprese che lato clientela consumatori, diciamo. Cambia il fatto che sostanzialmente vengono equiparati in tutta Europa i tempi di richiesta di rimborso e anche la richiesta di rimborso in caso di anomalie che il consumatore, il debitore, diciamo, di un RID riscontrasse sul proprio debito. Cosa significa? Che in tutta Europa, prescindendo quindi da quelle che erano le legislazioni precedenti o gli usi precedenti, se io non riconosco un addebito perché ritengo di non aver mai dato quell'autorizzazione all'addebito in conto, avrò 13 mesi di tempo dalla data dell'addebito per comunicarlo alla mia banca e chiedere la rettifica dell'operazione. In questo caso l'importo mi verrà immediatamente rimborsato. Inoltre, se invece per un addebito che io effettivamente ho autorizzato come operazione ricorrente, però mi rendo conto che l'importo è anomalo o secondo me non è quello corretto, avrò 8 settimane di tempo a partire dalla data dell'addebito per chiedere il rimborso. In quel caso la banca mi dovrà rimborsare entro 10 giorni o motivarmi un eventuale rifiuto di niego, sì. Quell'importo. E questa è una novità. C'è un altro aspetto importante che ha spaventato un pochino i consumatori e i clienti bancari, lo siamo tutti, dottor Gaggi, cioè vanno in pensione le vecchie coordinate ABI e CAB del conto corrente. Adesso per i bonifici diventa obbligatorio il codice IBAN e tutti si sono spaventati perché dicono: oh mamma mia, adesso per fare un bonifico bancario dovrò trasmettere alla banca questo codice, dove me lo scrivo, è complicatissimo. In realtà già adesso operavamo da diverso tempo con l'IBAN e non è stata teoricamente, ma anche nella pratica, una rivoluzione silenziosa. Secondo lei, insomma, per poter fare poi tutte le operazioni con la banca, è bene che questo codice ce lo scriviamo da qualche parte, perché è banalmente la sommatoria fra ABI CAB e numero del conto corrente, quindi se proprio lo andiamo ad esaminare non è niente di così complicato, dottor Gaggi? È esattamente così. Sembra, spaventa un pochino data la sua lunghezza, perché sono stati aggiunti dei codici a livello internazionale, quindi gli italiani sono contraddistinti da IT come iniziale e così via. Però, come ha detto lei, di fatto io rimango addirittura un pochino sorpreso che l'IBAN, che sembra così complesso, è stato invece ben digerito e viene molto utilizzato ormai rispetto alle vecchie coordinate che prima si diceva CAB, AB, eccetera, e pure quelle presentavano un livello di complessità che spesso portava il cliente a non capire bene. Il mio suggerimento, il nostro suggerimento del banco è quello di scriversi il codice intero così com'è, tenerlo. Di solito adesso le banche danno anche dei tesserini nei quali ci si può scrivere il proprio IBAN, comunque sta su tutti gli estratti conto, sta su tutti i documenti contabili che rilascia la banca. Memorizzare quello, tra l'altro quello non è un codice segreto di per sé, soltanto l'identificativo del conto, e tenerlo sempre pronto per ogni evenienza. Peraltro ormai molti dei bonifici vengono fatti via internet tramite meccanismi di banca via web, e lì di solito si memorizzano tutti i codici dei bonifici effettuati, e quindi di per sé non è più un livello. Non è necessario compilarlo ogni volta e trascriverlo ogni volta, diciamo che mediamente viene memorizzato, insomma, dal sistema. Abbiamo un minuto di tempo, dottor Gaggi, ma magari un'ultima cosa relativa ai cambiamenti che riguardano l'ambito importante dei bonifici e i tempi con cui poi i pagamenti possono essere trasmessi attraverso questa modalità. Mi sembra anche una cosa importante, perché non sarà più ammessa, per esempio, la richiesta di accreditare un importo sul conto di un beneficiario con una data valuta anteriore o pari alla data di disposizione dell'ordine. Per cui se oggi io trasmetto un ordine di pagamento per una cosa tramite bonifico, non potrò più far valere quel bonifico 3 giorni fa? Esatto, questo, diciamo, è uno dei meccanismi che ha introdotto la direttiva, siccome era un pochino, diciamo, la verità, un'anomalia italiana questa di prevedere dei bonifici che decorressero dai giorni precedenti in cui veniva effettuato il bonifico. Di fatto in questo ci siamo equiparati al resto d'Europa, dove non è più ammesso. Quindi se io devo fare un bonifico e so che devo, per esempio, gli stipendi, devo sapere che il 27 il mio dipendente deve avere i suoi soldi dello stipendio sul conto, mi dovrò premunire e fare il bonifico il 25, il 26, esatto, affinché il 27 mattina siano sul conto. Sì, i conti siamo... che sì. La direttiva prevede un giorno lavorativo a partire dalla data di ricezione dell'ordine come data dalla quale il cliente beneficiario avrà i soldi sul conto, però poi fino al 1 gennaio 2012 è ammessa, diciamo, una deroga. C'è una fase ancora transitoria sostanzialmente. Dottor Gaggi, noi speriamo di aver spiegato correttamente tutti i cambiamenti che stanno arrivando per chi non li avesse appresi al volo questa mattina nella nostra chiacchierata. Ricordo che queste guide prodotte appunto dall'ABI e da tante altre organizzazioni appunto stanno arrivando tra gli sportelli bancari, per cui prendetevele, portatevele a casa e così avrete un po' il monitoraggio chiaro di quello che sta accadendo. Buona giornata, presto! Grazie. Arrivederci. Grazie. Alessandro, oggi Salvatore Ragno al volo. Esce la guida pratica del Sole 24 Ore per la scelta del mutuo e noi oggi parliamo di tutte le assicurazioni che bisogna firmare per comprare casa, bisogna sottoscrivere per comprare casa, per sottoscrivere un mutuo e Ciao. E quant'altro. E quant'altro. Bene, noi parliamo della nascita del Ministero per l'attuazione al federalismo. Vi chiediamo, era necessario secondo voi? Dovete votare su radio24.it. Le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo nel nostro sondaggio oggi di politica, della nascita di un nuovo ministero. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È il Ministero per l'attuazione del federalismo, a capo è stato messo Aldo Brancher. È una notizia di venerdì scorso, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, una notizia che ha suscitato qualche polemica politica, il dibattito politico. Vi chiediamo, è secondo voi necessario un nuovo Ministero, il Ministero per l'attuazione del federalismo? Dovete votare su radio24.it, c'è da dire che per ora prevalgono abbastanza nettamente i no, l'84%, ma vogliamo chiederlo a due esponenti politici. Saluto l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Tra l'altro voglio ricordare il direttore del Predellino. Saluto anche Massimo Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, buongiorno onorevole Donadi. Buongiorno anche agli ascoltatori. Allora io partirei da quello che ha detto ieri Umberto Bossi, perché c'era il raduno di Pontida, i 20 anni di Pontida della Lega, molto atteso ovviamente anche per quello che poteva essere la reazione da parte del popolo leghista alla nomina di Brancher. Sentiamo che cosa ha detto Umberto Bossi al riguardo. Ho sentito la radio della Lega su cui arrivano migliaia di telefonate, ma adesso hanno tolto a Bossi la delega. No, non è vero. La dire c'è un solo ministro per il federalismo e sono io. Il federalismo lo facciamo sempre la coppiata io e Roberto Calderoli, che porta avanti la macchina del federalismo. Non è che sia cambiato qualche niente. Non è cambiato niente il ministro al federalismo, solo io. Allora, onorevole Stracquadagno, visto che c'è il ministro Bossi, c'è il ministro Calderoli, qualcuno dice c'è anche il ministro Fitto per il rapporto alle regioni e il ministro Rotondi per l'attuazione del programma, il federalismo è uno dei punti del programma, che bisogno c'era del ministro all'attuazione del federalismo? Possiamo prima fare una precisazione su quello che lei ha detto? Sì. Non è nato nessun nuovo ministero. Se lei fa il sondaggio sul fatto che è nato un nuovo ministero, lo sbaglia tutto, lo sa. Perché senza portafogli? Perché non ci... un ministero, sa che cos'è nell'ordinamento italiano? Sì, sì. Non si possono confondere gli ascoltatori. Nuovo ministro? Questo è cattiva informazione. Un nuovo ministro? Non è nato nessun... C'è un nuovo ministro. Allora, posso spiegare, perché bene... spiegare, l'informazione dovrebbe dare informazioni, sì. Non dovrebbe fare cattiva propaganda, e questa stiamo è, facendo propaganda. È una disinformazia che gira da 3 giorni, che è nato un nuovo ministero, è come se io dicessi che se abbiamo dato dei soldi alle radio private, non è vero, lei si indignerebbe, è giusto o no? Sì, insomma stiamo facendo propaganda, spero di no. No, non sto facendo propaganda, sto dicendo che non si possono confondere le cose e non si possono raccontare cose ingannevoli. Un ministero è una organizzazione, un apparato, dei dipendenti, un capo di gabinetto, una struttura, una serie di articolazioni, dei funzionari che hanno un costo. Promuovere invece il sottosegretario delle riforme al rango di ministro, dato che tutto questo sta nell'ambito della presidenza del Consiglio, non sposta di un euro la spesa dello Stato. Questo è l'aspetto di costi, ma le polemiche... Sembra poco. No, certo, ma lei deve cambiare già il sondaggio. Lo cambieremo. Le polemiche però non sono legate solamente al costo. Perfetto, e questo è il primo punto. Oh, veniamo alle polemiche politiche. Il secondo punto è: qual è il compito per il quale il sottosegretario alle riforme, che era sottosegretario di Bossi, cambia mestiere? Semplice, che essendo stato approvata la legge sul federalismo fiscale e dovendosi adesso approvare 14 decreti attuativi nell'arco dei prossimi 2 anni e mezzo, occorre un lavoro certosino di preparazione di lavoro parlamentare. Se uno non conosce le regole del Parlamento, non sa che una legge delega come quella del federalismo fiscale, perché possa essere operativa, richiede un lavoro di preparazione, stesura e approvazione in Parlamento, nelle commissioni competenti, di norme di dettaglio assolutamente complessa. Sì. E siccome il federalismo non è solo quello fiscale e le riforme di cui si occupa Bossi non sono solo il federalismo, ma sono anche la forma di governo, la divisione dei poteri del Parlamento, la riforma dell'ordinamento della giustizia, perché sono le riforme ordinamentali in genere, allora occorreva avere, dividere il lavoro tra due persone. Uno è l'ex sottosegretario, oggi ministro Brancher, che seguirà i 14 decreti attuativi, sì, che costituiranno un codice, un vero e proprio codice, e l'altro è il ministro Bossi, che si occupa, diciamo, della strategia delle grandi riforme. Ma è vero che resta l'unico ministro per la definizione del federalismo inteso come grande riforma di principio. Insomma, questa è la motivazione, la grande anche mole di lavoro che bisogna fare in Parlamento. Certo, bisognava... è il fatto che così il ministro Brancher partecipando al Consiglio dei Ministri ne fa partecipe l'intero Consiglio dei Ministri. Perfetto, allora vediamo le critiche politiche, onorevole Donadi, poi veniamo alla questione un'altra. Il ministro Brancher è stato intervistato anche oggi di Repubblica e risponde all'accusa che molti hanno fatto, cioè la nomina a ministro, l'elezione a rango di ministro per avere il legittimo impedimento per alcuni processi pendenti, per un processo pendente su di lui. Questa è una delle accuse che voi avete fatto. C'è anche un'accusa politica di fatto, onorevole Donadi, oltre a questa del legittimo impedimento? Ma innanzitutto diciamo che si è creato un ministero barzelletta, un ministero assurdo, il ministero del nulla. Vorrei intanto correggere le parole di Stracquadanio. Il ministero senza portafoglio significa un ministero che non ha assegnato un suo budget di spesa, ma un ministero senza portafoglio costa, e come? Perché il ministro è attorniato da uno staff di dirigenti, di funzionari, di impiegati che deve dare vita e corpo a quella struttura senza la quale nessun ministro può operare. Quindi duplicazione di un ministero che, anzi qui non siamo neanche alla duplicazione, siamo alla triplicazione o quadruplicazione, perché del federalismo si occupava Bossi, del federalismo si occupa e come Calderoli, proprio per quelle cose di cui parlava adesso Stracquadanio, sta lavorando ormai da anni ai decreti attuativi, sta lavorando a tutto quello che è l'attuazione del federalismo, quindi un ministero di cui nessuno sentiva il bisogno, tantomeno la Lega, che non a caso ieri dice il federalismo siamo noi, non è cambiato nulla, e quindi se non è cambiato nulla significa che Brancher non serve, e quindi resta il dubbio, ma perché si fa dalla sera alla mattina un ministero che è un costo inutile, di cui nessuno sente la necessità, il dubbio, che la Lega non voleva, poche settimane prima che il neo ministro si trovi a dover affrontare, neo ministro che con le aule dei tribunali già ha avuto dai tempi della Prima Repubblica una lunghissima frequentazione, si fece diversi mesi di carcere, fu condannato in primo e in secondo grado per finanziamento illecito non è mai stata soltanto perché in Cassazione il reato per una parte si prescrisse, per l'altra nel frattempo venne su questo appunto va fatto che non è mai arrivata una condanna definitiva. Su questo Brancher ha detto: non sono mai stato condannato definitivamente, poi c'è stata una condanna in primo grado e secondo grado per credo falso in bilancio, poi reato depenalizzato, e per finanziamento illecito poi c'è stata la prescrizione. Una condanna definitiva non è arrivata. Però, onorevole Stracquadanio, le chiedo: secondo lei il ministro Brancher dovrebbe avvalersi del legittimo impedimento per il processo in cui è imputato, cioè una vicenda la Banca Popolare di Lodi, Giampiero Fiorani? Guardi che il ministro Brancher poteva già avvalersi del legittimo impedimento, perché nel momento in cui uno è sottosegretario ha talmente tanti impegni, per cui il legittimo impedimento non è altro che la impossibilità a partecipare alle udienze, e uno lo fa volta per volta invece di avvalersi di una norma. Credo che lo abbia fatto anche. Credo che lo abbia fatto. Appunto, lo ha già fatto, quindi stiamo parlando dell'aria fritta. Però in questo caso è proprio c'è la legge che vale per i ministri, no? Ma che differenza fa? Se l'ho già fatto e continuerà a farlo, non è cambiato nulla. Vede, se l'onorevole Donati, invece di rubare il suo stipendio di parlamentare, frequentasse le aule del Parlamento, cosa che non fa mai, tant'è vero che settimana scorsa è riuscito a intervenire anche in aula, in un dibattito su una questione, quella di un voto contestato, in cui lui non era presente, quindi parla di cose che non conosce, se lui, l'onorevole Donati, frequentasse il Parlamento, non direbbe ancora un nuovo ministero, non parlerebbe di staff, di funzionari, sì, perché saprebbe che le persone che lavorano già con Brancher continueranno a lavorare con Brancher e stanno tutte nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Quindi, se si approfondiscono le cose, si conoscono, la si smette anche con questa continua cultura del sospetto, per cui c'è sempre qualcos'altro dietro le spalle. Guarda che però, onorevole, anche Gasparri, per esempio, ha criticato. Stato tra quelli che, per esempio, nei giorni scorsi, quando sono usciti gli articoli del Corriere della Sera che inducevano sospetti sull'onorevole Di Pietro, ci ha pucciato il biscotto dentro. Chiederei a questi signori dell'Italia dei Valori di parlare di fatti di politica invece di essere sempre a fare i poliziotti dietro l'angolo, nascosti, quelli che spiano chissà cosa sta accadendo. No, guardi, adesso devo andare a dare il traffico, però devo dire che anche all'interno del Popolo della Libertà, magari partiamo da questo, anche l'onorevole Gasparri ieri ha detto non c'era motivo di fare un nuovo ministro, però voglio dire, come dire, che qualche mugugno credo anche all'interno della maggioranza ci sia. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, onorevole Donati, qui Straquadagno ci sta dicendo che non c'è un nuovo dicastero, non c'è un nuovo staff, non c'è un nuovo costo, non c'è le persone che lavoravano prima con Brancher, che era sottosegretario, lavoreranno ora che è ministro. Cioè, questa accusa deve cadere da parte dell'Italia dei Valori, perché non regge. Beh, ma diciamo che la virulenza dell'eloquio di Straquadagno, totalmente inutile, totalmente fuori luogo, fa capire come in realtà si trovi in grande difficoltà e imbarazzo, ed infatti sta raccontando un sacco di bugie. Un nuovo ministero, anche se senza portafoglio, comporta costi importanti per lo Stato, quindi ci troviamo davanti a un governo che spreca, scialacqua, butta dalla finestra soldi dei contribuenti in un momento in cui proprio non ce ne sarebbe bisogno, compie un'azione politica inspiegabile per gli stessi dirigenti del PDL, e anche qui io non ho ancora sentito dall'onorevole Straquadagno una spiegazione che abbia anche un minimo di buon senso, perché dire che dovrà guardare il coordinamento, l'esecuzione dei decreti attuativi del federalismo, ma non prendiamoci in giro, esistono già tre ministri che se ne occupano, una commissione bicamerale tra Camera e Senato apposita, creata appositamente ad hoc per l'attuazione del federalismo, è una bugia. Di questo ministero inutile, nessun senso logico può spiegare la Costituzione. Allora, quando si fa una cosa che nulla al mondo può spiegare, che non ha logica, che non ha ragione, che non si spiega, che non serve, che nemmeno i colleghi dell'onorevole Straquadagno riescono a spiegarsi perché è successo. E guarda caso, avviene 2 settimane prima che il ministro Brancher sia chiamato ad andare a rispondere in un procedimento penale. Ribadisco, lui che le aule dei tribunali le ha già ampiamente conosciute e vissute. Insomma, questo fa tutto insospettire, insomma, sulla tempistica anche. Onorevole Straquadagno, perché secondo lei Gasparri dice non c'era bisogno di un nuovo ministro? Cioè, voglio dire, nega che ci siano dei mugugni anche all'interno del Popolo della Libertà? No, non nego, io dico che Gasparri ha detto la sua opinione, che è diversa dalla mia, tutto qua. Però, vede, il problema è quello che sta dicendo l'onorevole Donati, che fa parte, se uno va a vedere sul sito della Camera, può leggere che fa parte della prima commissione, che è la stessa di cui faccio parte io. Sfido a duello dietro il convento delle Carmelitane Scalze l'onorevole Donati a dirmi se ha mai messo il naso una volta nella prima commissione, perché non c'è mai alla Camera. Donati, qui sta, parla di cose che non conosce. Qui Donati sta dicendo Donati non ha mai partecipato al lavoro di stesura dei pareri sui decreti delegati delle leggi, non sa di che parla, perché è un assenteista cronico dal Parlamento, non possiamo parlare però queste di sono perché siccome lei ha detto assenteista cronico e poi addirittura ruba lo stipendio, onorevole Donardi, certo, qui onorevole Donardi deve dire quante volte ha votato, perché siccome c'è tutto sul sito sentiamolo da onorevole Donardi, deve... sentiamo da lei, lei va in commissione guardi allora io ci vorrei commissione no, davvero non, esprimere non ci, il disprezzo mio personale verso la persona dell'onorevole Staccadagno, perché vede io sono ovviamente sempre presente in aula, nell'ultimo mese sono stato assente perché ho subito un lutto personale, ho perso all'ottavo mese di gravidanza di mia moglie un figlio e per questo sono stato assente dall'aula un mese e dovermi trovare ora in una trasmissione per lo squallore umano di, di una persona come Staccadagno a dare spiegazione di questa mia scelta credo che sia qualcosa di cui Staccadagno allora chiudiamo parentesi, io ovviamente non lo sapevo, Staccadagno non lo sapeva neanche lei, voglio sperare, perché chiudiamo questa cosa e passiamo oltre, perché mi spiace anche aver messo l'onorevole Donati in una situazione francamente umanamente difficile, questo ovviamente da parte mia non c'era. Onorevole Staccadagno, la Lega secondo Rutelli in un anno farà cadere il governo. Guardi, devo prima intervenire sulle cose che ha detto Donati. Sì, a me dispiace però... quello che gli è accaduto, il fatto personale, ecco, di questo appunto, ultimo quindi, mese, ma lui stava giustificando la sua assenza dall'aula nel primo mese. Io ho detto che lui non partecipa mai ai lavori della commissione. E vabbè, ma ci ha spiegato perché non entriamo in una questione. No, mai! Dall'inizio della legislatura. Quindi non conosce le procedure. La mia contestazione, Donati, è che non conoscendo le procedure di approvazione dei decreti delegati, perché fa parte di una commissione, ma non viene a frequentare i lavori, non conoscendo, sputa sentenze. Okay. È tutto lì. Allora io voltiamo sono per arrabbiato. Voltiamo. Guarda, adesso a parte la vicenda, ma è che lui Staccadagno oggi non sa che pesci pigliare. È qui a difendere una posizione indifendibile, un ministero inesistente, un governo che tutela chi è sotto processo nominandolo a ministro, che fa legge ad personam, che copre la cricca, che dopo più di un mese non ha ancora sostituito il ministro Scajola, il ministro evidentemente non in grado di intendere il volere, visto che si trova la casa pagata, nemmeno sa da chi. Allora Staccadagno, cominciamo a dire le cose con il loro nome, qui non c'è il problema di andare o non andare in commissione, qui c'è il problema di un governo che ormai istituzionalmente, sistematicamente ha piegato la funzione pubblica agli interessi privati. Voi state prendendo in giro gli italiani nel momento in cui questo paese si trova nel momento peggiore della sua storia degli ultimi 50 anni. Allora, io su questo, però, tutto questo è puramente vergognoso. Io, siccome ho due minuti, Staccadagno mi vuole rispondere su questa cosa della Lega, Rutelli ha detto cade, entro un anno fa cadere il governo, la posizione ovviamente di Rutelli, e qualcuno segnala comunque dei brontoli anche all'interno del popolo leghista ieri a Pontida. Ma guardi, è solo una questione di come è stata presentata male dall'informazione la vicenda, perché se viene presentato come un nuovo ministero che prende il posto del ruolo di Bossi, è chiaro che la Lega... Ma Bossi lo saprà, come sarà stata presentata male dai giornalisti, ma Bossi lo saprà. Tanto è vero che l'ha spiegato con grande efficacia e ha detto il ministro per il federalismo sono io, per il federalismo da realizzare. Questo è per il decentramento, per l'attuazione, come posso dirle? È un fatto in cui noi diamo un maggior valore a questa riforma, perché elaborare 14 decreti attuativi in 2 anni e mezzo, che è un corpus di norme complicato, richiede un lavoro di tutti i giorni che distrarrebbe un ministro strategico come Bossi dalla visione generale delle riforme da realizzare. È come io non so come posso spiegare, è come avere sono due compiti totalmente diversi. Uno è un compito attuativo di una legge già fatta e che si occupa dei dettagli, dei particolari, delle minuzie, delle singole norme prima nelle commissioni alla Camera e poi nelle commissioni al Senato o viceversa. E l'altra cosa invece è concepire disegni di legge di riforma generale che poi devono essere attuati attraverso è stato chiarissimo nella sua spiegazione. Io ringrazio entrambi, l'onorevole Stracquadanio del PDL e l'onorevole Donadi dell'Italia dei Valori. Ci fermiamo qui, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Se volete anche per questa settimana mi trovate alla Zanzara 18:35, altrimenti domattina 7:30. Ora la linea a Oscar Giannino.